Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Da alcuni giorni Valeria Grasso, che è un'imprenditrice palermitana che ha fatto arrestare i suoi aguzzini, si è incatenata di fronte al Ministero dell'Interno, al Viminale, insieme ad un altro imprenditore della provincia di Palermo, Ignazio Cutrò. Lo ha fatto perché? Perché lei ha denunciato gli estorsori, che sono esponenti del clan Madonia, ma avendo trovato il coraggio di denunciare queste vessazioni, queste persone, in realtà dallo Stato, anziché ricevere ringraziamento, in realtà è stata scaricata. Quindi colui il quale, perché c'è anche l'imprenditore Ignazio Cutrò, hanno avuto il coraggio di denunciare Cosa Nostra, in realtà ne hanno avuto più un danno che un beneficio. Buongiorno Valeria Grasso. Buongiorno. Allora, lei in questo momento si trova incatenata di fronte al Viminale. Sì, infatti, purtroppo da stamattina già, malgrado cercano di farci togliere assolutamente, anche se noi siamo con questa nostra protesta, perché in realtà non ne possiamo più della nostra situazione. Veramente esasperati. Ma ecco, lei ci racconta brevemente la sua storia. Lei che cosa aveva a Palermo? Io gestivo una palestra all'interno di un bene di proprietà precedentemente di note famiglie mafiose. Parliamo del clan Madonia e Lo Piccolo. Poi questo bene è stato confiscato. Io ho continuato a gestire questo immobile. Comunque, ecco, lei Lei gestiva questa palestra, ma voglio dire, pagava il pizzo, qualcuno le ha imposto il pizzo? Esattamente, esattamente. Pretendevano che malgrado la confisca si continuasse a pagare un canone, loro lo intendevano un canone di locazione. Ah, ho capito, quindi anziché riscuotere l'affitto in un terreno che era stato, un immobile confiscato dal clan Madonia, gli esponenti del clan Madonia comunque volevano che lei pagasse. Esatto. E quanto doveva pagare? 500 euro al mese. 500 euro al mese. Sì. E quanto incassava lei in un mese? Ma io in un mese incassavo circa intorno ai 2.000-2.500 euro. Ho capito, quindi diciamo così che un quarto, un quinto doveva andare a questi strozzini di Cosa Nostra. Ecco, lei ha avuto il coraggio di denunciare, che cosa è successo? Ho avuto il coraggio di denunciare e dopodiché ovviamente ho continuato a gestire l'attività, ho testimoniato in tribunale e poi francamente ho comunque ricevuto una serie di minacce velate e ho fatto varie denunce tutelative. Ecco, ma che anno correva quando lei denunciò queste vessazioni, la richiesta di pizzo, e quando poi invece c'è stato il processo? Che anni erano? Ma parliamo dal 99-2000 poi al 2004. Ecco, lei ovviamente scrive in questo comunicato che ha mandato alla nostra redazione che lei lavorava, aveva clienti, gestiva ben due palestre, quindi insomma aveva una vita serena e felice, voglio dire, da questo punto di vista. Sì, assolutamente, assolutamente. Da quando purtroppo è iniziata la collaborazione, speravo di ricominciare a vivere in maniera totalmente diversa, essendomi... Ma lei perché dice questo? Perché le hanno tolto la palestra? Oppure no, io non lavoro più, la palestra è chiusa da 6 mesi, perché avevo scritto e sollecitato, io purtroppo non posso più parlare. Ah, non può più parlare perché stanno portando via? Sì, cercano di toglierci da qui, io mi scuso ma non posso più parlare. Ma chi è che sta cercando di portarla via? Qua la polizia non vuole che noi siamo qui, per cui malgrado nessuno ancora si è degnato di riceverci, cercano comunque di toglierci. Ho capito, ma lei lì con lei è Cutrò? Ignazio Cutrò è con lei? Sì, è qua, vuole che glielo passi? Sì, me lo passi, grazie, me lo passi. Pronto? Cutrò, buongiorno. Sì. Anche lei si è incatenato? Certo, sono stato io, diciamo, di stimolo anche verso Valeria. Ho capito, e lei che cosa faceva a Palermo? No, provincia di Agrigento. Ah, mi scusi, provincia di Agrigento, che cosa faceva a Bivona? Io l'imprenditore edile, Momento Terro, lavori edili stradali. Anche lei ha denunciato chi? Io ho denunciato la mafia della Bassa Quisquina. Sì. Non mi sono mai piegato al fisso, io non ho mai pagato il fisso e per questo sono stato penalizzato e mi hanno distrutto l'azienda. Le hanno distrutto l'azienda? Che adesso lei non ha più? No, perché dopo semplicemente gli arresti, dopo le denunce e gli arresti, non ho ricevuto più commesse e quindi non ho potuto lavorare né lavori pubblici né privati e quindi sono stato abbandonato letteralmente. Ma lo Stato che cosa le aveva promesso, mi scusi? Ma lo Stato non promette niente, promette soltanto... io ho fatto il mio dovere, quello di cittadino e quello di denunciare. Ma... lo Stato faccia il suo dovere, quello di aiutarmi a far rinascere la mia azienda e di non farmi perdere la mia dignità di uomo libero. Certo, ma la polizia sta cercando di portar via anche lei? Sì, sì, hanno cercato di caricare poco fa, ma i ragazzi qui ci hanno protetto, il deputato San Alfano si è messo davanti, quindi... Ho capito, protetto... ma chi è con voi quindi che sta cercando di aiutarvi? Quali sono le persone che sono con voi? Giovani, vecchi? Ci sono i familiari vittime della mafia a livello nazionale, i ragazzi dell'Agenda Rossa, sono qua, sono tutti ragazzi che... e come hanno sentito la notizia si stanno precipitando a massa per proteggersi. Ho capito, quindi probabilmente ci sarà qualcosa anche, diciamo così, di positivo in questo consenso e questo aiuto che vi stanno dando. Ma io ho fiducia nel futuro, il nostro futuro sono i giovani, perché sono quelli che non hanno la mente radicata all'omertà. Difatti i ragazzi stanno dimostrando oggi un gran senso di civiltà, pur non conoscendoci ci stanno vicino e ci stanno proteggendo, ci stanno facendo proprio scorta con... Ecco, ma se vi portassero via voi continuereste comunque la vostra protesta? No, io ho fatto poco fa che volevano caricare, gli ho detto vabbè, voi tagliate questa catena, io non mi opporrò, ma vi prometto che nel giro di 24 ore toglierò la mia vita. Beh, no, questo non deve dirlo. No, lo faccio, perché io ho messo in piedi da 15 giorni fa gli organi e nessuno si è... se neanche degnato di darmi una risposta. Io no, una se risposta si protesta bisogna costruire, mi raccomando non distruggere, a partire dalla sua vita. Non dica queste cose perché sicuramente non possono essere accettate da chi come me, come noi, come tantissimi milioni di italiani sono accanto a lei e alla vostra battaglia, altrimenti non la chiameremo, no? Ma io voglio capire una cosa, cioè loro, lo Stato è per la legalità e per l'antimafia e vogliono caricare due imprenditori che lottano contro la mafia, cioè mi faccia capire cosa stiamo facendo di male. Ha ragione, ha perfettamente ragione, mi raccomando. Deve sapere l'Italia deve sapere questo è il governo che ci sta governando in questo momento. Ma non è questione di governo, è questione purtroppo di società, non è il governo. Ho capito. Cutro, la ringrazio molto per questa sua testimonianza. Grazie a lei. Grazie. Allora io ringrazio dopo questa drammatica registrazione che abbiamo fatto ieri. Vi ricordo che a partire da lunedì ci sarà uno speciale che Radio 24 dedicherà invece alla Primavera Calabrese, alla società civile contro l'Andrangheta. Tutti i giorni nel GR delle 8 ci sarà uno spazio. Lunedì Daniele Biacchessi avrà un approfondimento nel suo Italia in controluce. Da Roberto Caluno una buona giornata a tutti.